Ai primi di marzo del 1438, l'aretino Giovanni Tortelli rientrava da Costantinopoli dopo un soggiorno di 2 anni, trascorsi alla scuola del maestro Giovanni Eugenico, fratello del più famoso Marco d'Efeso, uno dei protagonisti del Concilio di Firenze. Lì era entrato in familiarità con Giovanni da Ragusa, con Isidoro di Kiev e il futuro cardinale Ruteno. Il viaggio di ritorno da Costantinopoli venne compiuto con la delegazione di orientali diretta alla volta di Ferrara, al seguito dell'imperatore, del patriarca, dei legati della Chiesa romana, a diretto contatto quindi con i massimi esponenti del mondo ecclesiastico e culturale greco e latino. Il rientro era stato sollecitato dal cardinale di Sant'Angelo, Giuliano Cesarini, che avendo conosciuto e valutato la competenza nella lingua greca acquisita dall'aretino, lo voleva al suo servizio per i rapporti frequenti e delicati con gli orientali. Giunto nella città estense, il Tortelli si accinse subito alla traduzione della Vita Romoli di Plutarco, la sua prima opera di un certo valore, conservata in parte autografa nel manoscritto Antonelli 545 della Biblioteca Comunale di Ferrara, insieme a stralci in latino dagli atti del Concilio di Efeso del 431 e assunti in latino e greco che richiamano nel contenuto il lungo discorso tenuto dal Cardinal Cesarini a Ferrara durante la nona sessione. Poi, come eco degli episodi più vistosi del Concilio di Firenze, compose 2 interessanti biografie di santi, tra il 1439 e il 1440. Quella di San Zenobi, antico e illustre vescovo della città, richiestagli dal rettore di San Michelino, Giovanni di Paolo, che desiderava illustrare ai greci appena giunti le glorie di Firenze. E quella del santo ed eroico vescovo di Alessandria, Atanasio. L'interesse per questa seconda vita muove quindi da più ragioni. Primo, la personalità dell'umanista, noto soprattutto come consulente di Niccolò V e coordinatore del movimento culturale avviato dal Papa con la costituzione della Biblioteca Vaticana. Secondo, la sua attività di traduttore, ancora quasi del tutto ignota e inesplorata. L'ambiente in cui opera, che vede gli umanisti coinvolti con le loro specifiche competenze nella ricerca di manoscritti e di auctoritates su cui fondare i dibattiti della sessione conciliare. Il nome del biografato, al centro della rinascita dell'antica letteratura cristiana, avviata in Italia dalle letture e dalle traduzioni di Ambrogio Traversari, che ripropose alla riflessione teologica, filosofica e morale in particolare i testi dei padri greci. E ancora l'iter della biografia atanasiana, quale emerge dall'individuazione di 2 lettere di dedica a personalità diverse, che ci rivelano un Tortelli attento ad accattivarsi la benevolenza e l'aiuto di Eugenio IV per la sua carriera curiale. E da ultimo, il carattere del testo della vita. Dalla tradizione manoscritta ampia, più di quanto finora affermato dagli studiosi del Tortelli, ho recuperato fino ad ora 13 manoscritti e in più ci sono 5 stampe. Tra questi un manoscritto a Dresda, purtroppo total zerstört, che fu sicuramente costruito a Firenze nel periodo del Concilio, e 2 manoscritti vaticani con consistenti tracce dell'intervento del Tortelli. Un testo, quello della vita, la cui composizione si è rivelata fin dalla prima indagine più complessa e intricata di quanto l'opinione comune si avesse sancito, e cioè che questa vita rappresentasse la traduzione fedele delle biografie scritte in greco da Socrate, Teodoreto, Sozomeno, questi scrittori di storia ecclesiastica, Metafraste. Numerosi quindi gli interrogativi e tali da esigere, se non una risposta definitiva resa impossibile in questa sede dalla complessità della ricerca che è ancora in corso, perlomeno un utile riesame della questione anche nei pochi dati già acquisiti. E queste mie note vanno intese come un avvio a ricostruire una parte delle vicende che accompagnarono la penetrazione del pensiero greco nel mondo umanistico, soprattutto in quell'aspetto che tanto importava agli uomini del Quattrocento, nella forma di sintesi della cultura classica e della rivelazione cristiana. E si inserisce in un'indagine più ampia che sto conducendo sulle traduzioni dal greco in età umanistica, che riguarda ambienti e situazioni diverse, uomini dalla differente formazione culturale e testi appartenenti a svariati generi letterari. Un contributo che presenta sicuramente dei limiti, ma non quelli dell'astrattezza e dell'infondatezza dei risultati. Per cominciare, dobbiamo innanzitutto dire che un giudizio sull'attività di traduttore del Tortelli non può prescindere da una preliminare osservazione sul fenomeno delle traduzioni umanistiche, per le quali si sta passando molto lentamente da un discorso generale, a volte fuorviante, ad una ricerca sui singoli autori o sulle singole versioni, ad una verifica degli enunciati teorici con la prassi effettivamente eseguita e alla raccolta di conoscenze obiettivamente accertate. E se le tanto deprecate traduzioni medievali, ripudiate a volte solo a parole dagli umanisti, diventano oggi determinanti anche nella storia della tradizione manoscritta e nella stessa costituzione del testo, stanno pure cadendo alcuni pregiudizi sulle traduzioni umanistiche, finalmente entrate tra gli argomenti degni di essere esplorati. Però è ancora lontana una storia delle versioni nel secolo XV, come era lontana per quelle delle versioni in ambito medievale. Perché scarse sono le edizioni critiche, pochissime le analisi puntuali e filologicamente attendibili dei singoli testi, le uniche operazioni che permetteranno non solo di conoscere i testi tradotti e la loro diffusione, ma soprattutto di impostare in maniera corretta e più consapevole il rapporto tra teoria della traduzione e prassi versoria, tra i testi scelti e quello che il traduttore è riuscito a comprendere e a trasmettere ai suoi contemporanei. E allora sarà indispensabile pure rivedere l'ordinaria e diffusa presentazione della storia letteraria, scientifica e filosofica del cosiddetto umanesimo del secolo XV. Quando si parla di versioni dal greco in Italia si pensa subito a Manuele Crisolora, che negli anni del suo soggiorno fiorentino, febbraio 1397, marzo 1400, diede avvio ad un incontro programmatico con la cultura greca attraverso l'insegnamento pubblico e ufficiale della lingua, alla cui morfologia accostava i suoi discepoli con il sussidio del trattatello grammaticale erotematico da lui elaborato e attraverso la lettura e il commento di testi dalla notevole portata culturale. E ancora a lui si fanno necessariamente risalire le linee teoriche sottese alle traduzioni umanistiche, riconducibili ai suoi precetti, diffusi dall'allievo Cencio De Rustici, e che si riassumono sostanzialmente nella perfetta comprensione grammaticale del testo, e quindi nella traduzione ad verbum, come base di partenza, che però minime valet per Crisolora, mentre una versione fedele e non deviante doveva essere ad sententiam. Il maestro ammoniva però con vigore che non bisognava sovrapporsi all'originale e che gli scrittori greci dovevano essere tradotti nella loro integrità, che non era lecito abbellirli nello stile e mutarne o ampliarne i dati testuali, neppure allo scopo di rendere più facile ai lettori la comprensione dell'andamento dei pensieri. Per i suoi allievi, quindi, tradurre significava sì aderire al modello, ma soprattutto renderlo intellegibile attraverso le proprie cognizioni linguistiche, concezioni che l'Alto Medioevo aveva ereditato, abbiamo sentito questa mattina, soprattutto da Gerolamo e da Rufino. E oggi le valutazioni sulle singole versioni sono espresse misurando i risultati solo e soprattutto, e sottolineo questo, sull'aderenza più o meno rigorosa a questi canoni. Per cui ci si stupisce di fronte, ad esempio, alla versione quasi letterale e priva di eloquenza realizzata dallo stesso Crisolora insieme a Uberto Decembrio del difficile testo della Repubblica di Platone, in contrasto con le formulazioni teoriche e giustificata un po' semplicisticamente dal Cammelli perché è compiuta ad uso scolastico, a scopo pratico, insegnando la lingua greca al suo discepolo. Oppure si tacciono alcuni traduttori di incoerenza, perché non tengono fede nella prassi alle linee programmatiche espresse nelle lettere prefatorie, dimenticando che queste spesso vengono dopo e servono per giustificare un lavoro che parte da un livello essenzialmente pratico, che la varietà di metodi e di intenti mutano in rapporto anche al genere letterario cui la traduzione si applica e agli ambienti in cui si realizza, dimenticando ancora che il bagaglio linguistico può essere spesso esiguo e carente e gli strumenti a disposizione scarsi. Tutte difficoltà e incertezze che potranno trovare una soluzione con future indagini, ma che già oggi possono essere in parte spiegate se inserite in un'ottica diversa e sostenute da un'analisi meno riduttiva. Le recenti indagini condotte da Ernesto Berti sulla lettura di Luciano a Firenze e sulle prime versioni dei dialoghi hanno aperto uno spiraglio sui metodi di insegnamento del Crisolora e sull'applicazione dei discepoli. Inoltre, il recupero dell'Urbinate greco 121 contenente le opere di Luciano, corredate negli interlinei e nei margini da un apparato continuo di traduzioni e di annotazioni di carattere testuale ed esegetico, permette di modificare anche l'opinione diffusa che ritiene le versioni l'obiettivo primario dell'insegnamento di Manuele. Ancora il Cammelli dice: il Crisolora deve aver imperniato il suo insegnamento su questi due punti principali: immediato apprendimento delle prime elementari nozioni del lessico e della grammatica e subito dopo, appena gli fu possibile, l'opera delle traduzioni. Ora, l'Urbinate greco 121 fornisce la sicura testimonianza di un discepolo del Crisolora che si è costruito un libro per leggere le opere di Luciano in lingua originale, indipendentemente e precedentemente rispetto alla circostanza per cui poi ha anche posto mano, se fu lui medesimo, a tradurre in latino quanto vi aveva trascritto. Egli si è annotato la spiegazione data dal maestro a lezione, ha registrato tutto quanto ha ritenuto necessario per riuscire a rileggere e a comprendere il suo Luciano, dalle strutture morfologiche a quelle del del significato dei vocaboli e alle espressioni peculiari della lingua greca. E se la traduzione del Caronte fu opera sua, venne condotta con l'ausilio di questa glossa, come quella del Timone, contenuta nello stesso manoscritto, realizzata ancora sulla scorta di una esegesi a livelli diversi e all'interno dei discepoli del Bizantino, ma non certo guidata e revisionata dal maestro. Si ricava così che la versione letteraria non è in primo piano nella didattica crisolorena rispetto alla fruizione dei testi in lingua originale. È distinta e spostata ad un momento successivo. Questa acquisizione potrebbe illuminarci sulla importante questione della contraddizione tra gli insegnamenti crisolorini circa la traduzione e la versione verbum de verbo della Repubblica. Il ruolo del Crisolora potrebbe essere distinto da quello di Uberto e la sua funzione ristretta alla fase di spiegazione ed elucidazione del testo platonico, in sintonia con le altre testimonianze del suo insegnamento, e che Uberto avrebbe registrato, ipotesi avvalorata dal proemio dell'Ambrosiano B123 superiore, che tramanda la prima stesura autografa di Uberto parzialmente diverso dal testo della restante tradizione manoscritta. Secondo quest'ultima, il Crisolora avrebbe esortato il Dicembrio all'elaborazione linguistico-letteraria e successivamente approvato il suo operato, preceptore meo iubente et postmodum ad probat. Nel testo tradito dall'Ambrosiano viene invece omesso il postmodum, per cui ci troviamo di fronte non all'assenso del maestro, ma solo alle sue disposizioni per il completamento. Casi come questo insegnano che di fronte ad una versione non la si può ricondurre semplicisticamente entro un triplice binario del verbum de verbo oppure della traduzione oratoria fedele o della traduzione oratoria libera, secondo le definizioni di Remigio Sabadini, ma che è indispensabile cogliere le peculiarità di ciascun caso, valutarlo all'interno dell'ambiente in cui si esplica l'attività dell'umanista, il quale può riservare anche apparenti contraddizioni ai canoni teorici, a volte enunciati in modo esplicito. E vediamone alcuni in modo tale da avere questo panorama entro il quale inserire effettivamente anche l'attività del Tortelli. Fedeltà all'originale e rispetto delle esigenze implicite alla lingua in cui si traduce, proclama Poggio Bracciolini nel preambolo alla versione del Lucianeo Iupiter Confutatus. Converti autem non solum ut traductor verborum, sed etiam sententiarum interpres. Credo non ci sia bisogno di tradurre questo latino abbastanza facile. Nam, ubi lingue latine dignitas, permisit verba transtuli. Ubi vero durius, fieri videbatur, more meo locutus sum. Ita ut sensus integer salvaretur. Lo scopo è quello di tradurre in modo tale che il significato della frase rimanga immutato, ad sententia, e ciò in vista di quei caratteri che inconfondibilmente contraddistinguono la lingua latina. Primo fra tutti la dignitas, identificabile senz'altro con la proprietas. In secondo luogo il lusso lessicale, copia dicendi, in base alle ben note norme ciceroniane. Infine l'ornatus, riguardante le parole, prese da sé o congiunte, e la loro buona collocazione in vista anche del raggiungimento del ritmo numerus. Senza l'applicazione di tali precetti ciceroniani ricalcheremmo, secondo Poggio, il vernaculus scribendi usus dei greci, da cui occorre discostarsi nella traduzione se si vuole evitare un uso sconsiderato, perché è in qualche modo dissimilis a nostra loquendi consuetudine. A quo nisi paulum recedas sub assurda reddetur scribentis Orazio. Ma a volte questo distacco è determinato da altri fattori, quali ad esempio la difficoltà a tradurre dei termini, per cui Poggio è costretto ad una interpretazione approssimativa e ridotta e ad una traduzione non del tutto adeguata. Ma il punto cardine della teoria umanistica del tradurre sta nel De Interpretatione Recta, composto da Leonardo Bruni, tra il 1424 e il 1426. Dico igitur, omnem interpretationis vim in eo consistere ut, quod in altera lingua scriptum sit, id in alteram recte traducator. Quindi questa traduzione retta. Ad una interpretazione retta si giunge solo dopo aver inteso il giusto senso delle parole, da sole o in figure, dal momento che il greco, secondo il Bruni, possiede numerose figure. Al traduttore così era d'obbligo non solo avere una conoscenza approfondita del greco, ma anche del latino, poiché uno dei vizi più esecrabili in chi traduce sta in una resa inappropriata stilisticamente del testo che si vuole vertere. In sintonia con questa linea, che riguarda lo stile, troviamo anche Lorenzo Valla, il quale però proclama un diverso atteggiamento da parte del traduttore di fronte all'autore da tradurre. Per il Bruni la fidelitas è la prima virtù da rispettare. In traductionibus interpres quidem optimus sese in primum scribendi auctorem totamente et animo et voluntate convertet. Cioè il pregio dell'autore è proprio questo annullamento nell'autore che sta traducendo, in modo tale appunto da rispettare figuram, statum, ingressum, colorenque, lineamenta cuncta, e devono essere espressi tutti questi elementi che sono propri appunto dell'autore in cui ci si immerge. Da qui deriva un certo effetto. Quindi dovere e pregio del traduttore è l'annullamento nel traduttore che sta, nell'autore che sta traducendo, al quale deve rimanere fedele. Il Valla invece è lontano, per questi testi vedremo storici e filosofici, mentre sarà su una posizione completamente diversa per quanto riguarda i testi sacri, il Valla per questi testi proclama una liberazione dalla oppressione della traduzione. E nella prefazione alla versione della Proctesi Fonte demostenica, Lorenzo tende a svalutare la traduzione in quanto tale, in modo risoluto e duro, perché in essa nulla invenzio, nulla disposizio, nulla coppia, nulla vis dicendi, nulla doctrina atque ars, nullum ingenium. Cioè, quindi manca di retorica, che sta nell'autore che si traduce e non nel traduttore, il quale deve agire su un testo già strutturato. Manca di eloquenza, per cui il traduttore non può scegliere i mezzi linguistici con cui esprimersi e che a lui sembrano i più consoni. Infine manca di originalità, per cui il traduttore è mortificato nell'annullamento della propria forza creativa. E a tale posizione critica il Valla rimarrà fedele anche negli anni romani durante la sua attività di traduttore presso Niccolò V. E da una parte indicherà l'utilità della traduzione come mercatura rerum optimarum nella prefazione alla versione di Tucidide. Dall'altra, per giustificare l'interruzione della traduzione di Erodoto, sottolineerà l'aridità e la superficialità della stessa rispetto all'originale. Allora, qual è il valore di una traduzione dal greco al di là dell'utilità della divulgazione del testo? Orientando la propria versione dell'orazione demostenica rispetto ai due esperimenti precedenti, quello sconosciuto attribuito a Cicerone, restituito alla memoria degli umanisti dalla lettera di San Gerolamo ad Panmacium e quindi attraverso il De Optimo Genere Oratorum, e poi invece quello noto di Leonardo Bruni, Lorenzo si proponeva di giungere alla meta raggiunta dagli altri attraverso un'altra strada, alio itinere ad metam. Ora, in che cosa consiste l'atteggiamento allora del Valla di fronte a questo? Deriva una propensione alla translatio ad sensum, intesa non solo come fedeltà all'autore tradotto nel rispetto delle peculiarità stilistiche e strutturali della lingua in cui si traduce, ma addirittura come una tensione a gareggiare con l'esemplare greco e a superarlo. Quello che interessa il Valla non è tanto lo scambio e l'arricchimento reciproco delle due lingue, quanto il raggiungimento dell'inversione dei ruoli tra il latino e il greco, il primo visto invece abitualmente per ricchezza e precisione subordinato al secondo. La traduzione mira dunque a mostrare che la lingua latina di per sé stessa è capace non solo di rendere la stessa forza dell'eloquenza demostenica, ma addirittura di aggiungerne. E in chiusura, mettendo in evidenza, in contrapposizione, l'operazione fatta da lui e l'operazione attuata da Leonardo Bruni, definisce la traduzione del Bruni come colui che ha parlato togato, lui che ha parlato con un linguaggio militare. Latino quindi eloquente ed elegante, nel contempo fedele all'originale, quello del Bruni. Militaris, quello del Valla, un termine abbastanza inconsueto per la versione, ma non per il linguaggio valliano, che concepisce la sua opera sempre come una battaglia. E in questo caso specifico, un energico e competitivo atteggiamento nei confronti del greco da tradurre. Il testo demostenico veniva bellicosamente recuperato all'imperium del latino che si andava rinnovando. Però rimane da verificare in concreto quali siano le modalità di applicazione di questi principi teorici. Ci sono altre testimonianze, una di Basino da Parma, in questa posizione valliana estrema, quindi di recupero del latino e di allontanamento dal testo greco. Ma è comunque la posizione bruniana quella che avrà il sopravvento, anche perché continuatrice della linea geronimiana, che rimase a lungo un punto di riferimento per i traduttori umanistici. E al De Interpretazione Recta deve molto Gianozzo Manetti, quando teorizza le modalità della traduzione dei testi sacri. Gianozzo Manetti, come il Bruni si era cinto a teorizzare proprio in difesa delle sue versioni aristoteliche contro il Barbarus medievale e aveva scritto il De Interpretazione Recta. Il Manetti scrive l'Apologeticus in cui cerca di sostenere la sua attività di traduttore dei testi sacri in risposta alle critiche seguite alla versione che lui appunto aveva compiuto del Salterio dall'ebraico e che aveva eseguito su richiesta di Niccolò V. Gianozzo non si discosta dal Bruni nella definizione dei quattro requisiti essenziali al buon traduttore: conoscenza esatta delle lingue da cui e in cui si traduce, conoscenza della forza, della natura, della proprietà delle parole, nonché delle figure dicendi, quindi spiccate doti stilistico-letterarie, perché non si sterilisca nell'incontro di gusti raffinati e costrutti elaborati. La maestosità del testo primitivo si recupera attraverso la proprietà delle parole, la gravità delle sentenze e gli ornamenti di entrambe. Manetti ribadisce che de una in aliam linguam, adverbum facta conversio, perfecta et laudabilis esse non possit. Cioè non c'è quindi questa possibilità. Per cui quando discute le vedute di Cicerone, di Orazio, di Gerolamo e successivamente addita degli esempi moderni di traduzioni, il Manetti mira a difendere la propria teoria dell'inutilità di qualsiasi versione ad verbum. Esalta invece quelle ad sensum che il Bessarione aveva fatto della metafisica di Aristotele e il Traversari dello pseudo Dionigi e di Diogene Laerzio. Il Camaldolese, del quale Manetti fu discepolo, più volte nelle lettere accenna alle difficoltà incontrate nel tradurre Dionigi l'Areopagita e, rammaricandosi di non averlo raffinato con il labor lime, si dice terrorizzato dal rischio di non riscontrare nel latino altrettante parole che rendano i corrispondenti greci e spieghino le sentenze senza offendere l'udito del letterato. Nella dedica a Cosimo de' Medici confessa che l'opera si rivelò più complessa del previsto a causa delle frasi spezzate e dei concetti oscuri e incomprensibili. Anziché dare una semplice esposizione storica, dovette ricorrere ad una serie di tecniche retoriche per non travisare il senso. Per questo la versione risulta condotta con abilità tanto maggiore quanto più astratta era la materia mistico-teologica che doveva tradurre. Di Bessarione il Manetti possiede il trattatello Sieum Volo Manere sulle leggi della traduzione in generale e dei libri sacri in particolare. E nell'Apologeticus il Manetti, libro terzo e quarto, analizza le differenze di interpretazioni nelle due versioni di Gerolamo dal greco e dall'ebraico e si fanno derivare gli errori dei 70 da aggiunte, omissioni e differenze interpretative. L'esemplificazione inizia con l'elenco delle aggiunte al testo ebraico. È un'analisi schematica ma precisa, nella consapevolezza della tradizione culturale e soprattutto, direi, per quanto riguarda l'indagine filologica, un inizio di ricerca scientifica. Notevoli dal punto di vista critico gli accenni alla genesi degli errori a causa degli emendamenti nei codici. Ne condivide quindi il bisogno di tornare all'originale, in caso di dubbio, per rimediare alla varietà delle interpretazioni dovute ad emendamenti di incompetenti e all'incuria delle biblioteche. Però nei confronti del primato dell'assoluta fedeltà testuale, Manetti è piuttosto cauto, accettandolo con riserva e limitandolo alle versioni bibliche. Il letteralismo testuale di Bessarione è riproposto da Manetti nella sua luce di reazione alle libertà di faziosi sostenitori di determinate dottrine ed esigenza di puntualità di traduzione. Riprende piuttosto l'insistenza sulla familiarità con gli autori tradotti e sulla conoscenza linguistica. Si comprende il senso nascosto delle scritture solo se delle frasi si rispettano la proprietà, l'ordine delle parole e la loro adattabilità nella nuova lingua. La versione della Bibbia, conclude, non deve essere né tanto letterale da risultare incomprensibile, né tanto libera da modificare l'originale con arbitrarietà. Da questo punto di vista, la versione di Gerolamo eccelle sulle altre, pur distaccandosi talora dalla lettera, ma non intacca mai il contenuto. Ma allora ci chiediamo, come mai egli ha tradotto nuovamente i Salmi, dopo la traduzione di Gerolamo? Quella traduzione che egli caratterizza come pene ad verbum e la cui validità aveva fondato sul rilievo delle inesattezze che alle versioni precedenti erano derivate a causa della non sempre adeguata aderenza letterale al testo originario. Come una risposta, possiamo dire, al bisogno di rigorosità e precisione che si addicono ai testi sacri. Quella rigorosità che porterà Valla, nelle sue denotazioni Sad Novum Testamentum, a recuperare la retta interpretazione del testo della scrittura attraverso la forma migliore, a costo di cambiare alcune parole che non sono degli apostoli, ma di qualche interprete, sulla cui cultura, dice Valla, non è il caso di discutere. Non si tratta di irriverenza, perché se ogni traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento dovesse essere considerata scrittura, ci troveremmo di fronte a testi spesso assai diversi tra loro e talvolta anche contrastanti e inconciliabili. E neppure si può fare ricorso all'opera di Gerolamo, perché le versioni preesistenti che egli corresse con maggiore riguardo ai significati che alle parole sono ora nuovamente costellate da errori. Tanto che opera profondamente religiosa, quindi ecco la sua battaglia, rivedere e correggere un testo che solo dopo tale revisione potrà essere considerato parte della scrittura. Istanza di rigore filologico e di precisione scientifica. E l'apparente antinomia del Manetti tra la sua traduzione pene ad litteram, la traduzione dei Salmi, e la proposta di una traduzione ad sensum, nella teoria dell'Apologeticus, potrebbe essere risolta, secondo il Trinkhaus, con la premura di una maggiore accuratezza, ma pur sempre entro i limiti imposti dalla necessità di rendere il pensiero più che la lettera. Quanto Ambrogio Traversari dichiara nelle prefazioni alle sue versioni di testi dei padri greci e ci illumina su questo capitolo della riproposta al mondo occidentale dei testi fondamentali resi attuali dai recenti contatti con il mondo bizantino e dal nuovo indirizzo assunto dalla teologia scritturale intesa con funzione pragmatica, riformatrice, cioè ecclesiastica e sociale. Non dimentichiamo che Traversari era generale dell'ordine dei Camaldolesi che ha portato il rinnovamento proprio all'interno dello stesso ordine. Egli avverte il problema del tradurre unito a quello del che cosa tradurre e per il primo percepisce l'importanza delle leges interpretandi, rifuggendo dalla rozzezza di una traduzione meccanicamente letterale e mostra nel contempo una particolare preoccupazione che la traduzione latina conservi la semplicità dello stile greco, come dice esplicitamente nella lettera che accompagna l'invio della sua versione delle Vite Patrum di Giovanni Mosco al Papa Eugenio IV. Ma per questa letteratura patristica non bisogna dimenticare che gli umanisti recuperano e divulgano versioni e rielaborazioni latine del primo Medioevo, che vengono accostate a quelle dell'esperto esegeta, traduttore e interprete di passi controversi relativi ai temi più scottanti del Concilio. E abbiamo delle sillogi che ci testimoniano questi, una in particolare è nel codice Fiesole 44 della Biblioteca Laurenziana, prodotto nella bottega di Vespasiano da Bisticci, che insieme alle versioni di Ambrogio Traversari degli opuscoli atanasiani Ad Versus Gentiles e De Incarnazione Verbi annovera traduzioni medievali da Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa. L'interesse e la cura per gli scritti del vescovo alessandrino vengono espressi per primo proprio dal Camaldolese, che in una lettera indirizzata a Niccolò Niccoli il 1 marzo del 1424 racconta come, dopo aver letto Eusebio in greco in 10 giorni ed essene rimasto affascinato, non così invece per la lettura della traduzione di Rufino, che lui dice di disprezzare, si rivolge alla lettura di Atanasio, nelle cui opere riscontra venustas quidam tum sentenziarum, quindi il contenuto tum verborum. E quindi è qualcosa che deve essere riproposto perché venga ammirato, venga venerato e amato. La lettura di questi scritti lo porta a tradurre e traduce i 2 libri dell'Adversus Gentiles e in più anche la Disputatio contra Arium, tutte conservate autografe nell'esemplare di lavoro insieme al manoscritto su cui venne probabilmente condotto la versione, di proprietà di Niccolò Niccoli e dell'attuale San Marco 695. Manoscritto che viene poi rimane in ambito fiorentino, viene utilizzato, postillato in seguito poi dal Poliziano. Ma gli scritti apologetici e dogmatici di Atanasio interessano pure Ogni bene d'Alonigo, che integrò quanto avviato dal Traversari, cioè traduce quanto il Traversari non aveva tradotto degli opuscoli atanasiani e pseudo-atanasiani, e dedicò la sua fatica al Papa Paolo II. Gli opuscoli vengono pubblicati a Vicenza nel 1482 con il titolo Contra Hereticos et Gentiles. Atanasio è per lui come il difensore dell'ortodossia, cioè colui che combatte contro questo dolum, che era appunto il dolum dell'eresia. Ma durante il periodo del concilio anche Antonio Beccaria inviò la versione di alcuni scritti atanasiani a Humphrey, duca di Gloucester, di cui diverrà segretario nel 39 e al quale anche nel 45 spedirà un altro gruppo di traduzioni sempre di scritti atanasiani, poiché al principe era particolarmente cara l'indiscussa ortodossia dell'apologista greco. Nessuna di queste traduzioni è oggetto di edizione, tantomeno di studio. A completare il quadro di questo impegno umanistico nei confronti di colui che avversità, accuse, condanne, esili, intimidazioni avevano rafforzato nella lotta contro le eresie e nella difesa dell'ortodossia, stanno la traduzione di Angelo Poliziano dell'Epistola ad Marcellinum, compiuta allo scopo di riprendere e imitare lo stile del latino cristiano. Ecco, quindi abbiamo delle prove, delle testimonianze di utilizzo del testo di Atanasio. E poi abbiamo 2 vite. Quella del Tortelli, di cui finalmente verrò a parlare, e quella di Ermolao Barbaro il Vecchio, eseguita questa per le monache del monastero di Santa Croce alla Giudecca. Questa è completa della narrazione, della traslazione del corpo a Venezia e dei miracoli ivi compiuti. E il vescovo di Verona si rivolge a queste sorelle che gli avevano richiesto la traduzione della vita e dice appunto «Petistis a me sorores ac filii in Cristo dilectissime, ut Atanasi sanctissimi viri vitam». Questo è importante. «Quam constat olim ab Eusebio greco sermone conscriptam». Una vita scritta in greco da Eusebio. Io la devo per voi tradurre in greco. Atanasio è uomo dalla vita esemplare, che quindi può essere riproposta. Ora, è una vita, quella che io traduco, veterem, che però è abbastanza diffusa, che contiene multis in rebus apocrypha, nec ubique veritate. Cioè c'è un misto di narrazione leggendaria con fatti veri. Egli però ha seguito il più possibile Eusebio, che è ritenuto fidelissimus scriptor. Ora non mi risulta, e qui chiedo aiuto a chi ne sa più di me, che circolasse una vita greca composta da Eusebio, fatto trascurato da coloro che hanno pubblicato la dedica. D'altro canto, il testo redatto dal Barbaro, per la parte che sono riuscita a controllare, non collima completamente neppure con quello di Rufino, che poteva nei manoscritti passare sotto il nome dello storico greco, essendone il completamento. non collima neppure, anche se ha degli aspetti comuni, con la vita anonima che circolava. Nessun rapporto, invece, con le laudes di Gregorio di Nazianzo e neppure con il giudizio di Fozio. Ma è un problema che risolverò quando potrò vedere il testo completamente. Non minori interrogativi pone la vita Atanasi, composto da Giovanni Tortelli, e sicura è la sua attribuzione. Infatti lo dice lui stesso nella voce Athanasius, nel suo grosso dizionario, che è appunto l'ortografia. È una vita che lui ha tradotto dal greco in latino per Eugenio IV. E tutti i testimoni manoscritti rinvenuti contengono la lettera di dedica al Papa. Inoltre il Vaticano Latino 1215, codice elegante in pergamena, con fregi miniati, ne è la probabile copia di dedica, su cui il Tortelli è intervenuto a correggere il testo, a segnare dei paragrafi lungo i margini e ad apporvi alcune sue considerazioni. Nel proemio si esalta la santità eroica del Papa, sottoposto ad innumeras persecuziones, pari a quelle sopportate dall'antico vescovo Atanasio, ed egli tradurrà questa vita ex grecis codicibus. Insisto su queste cose per poi capire che tipo di vita invece il Tortelli ci propone. Vedrà Eugenio in che modo sono giunte consolazioni ad Atanasio dopo le sue battaglie, e così sono arrivate anche a lui. E in questo il Tortelli ricorda alcuni recenti fatti che gli sono toccati, di cui lui è stato appunto il responsabile, strettamente connessi con le vicende del Concilio. L'atto di unione con la Chiesa orientale, 6 luglio 1439, la creazione di alcuni cardinali greci, tra cui Bessarione e Isidoro di Kiev. Un altro manoscritto, il Vaticano 1216, questo cartaceo di aspetto più modesto, manifesta ancora il diretto intervento del Tortelli, che vergò le rubriche, integrò una lacuna e apre subito una questione del rapporto con il precedente, ma non solo sul piano testuale. La collazione indica indipendenti due manoscritti, anzi, nel Vaticano 1216 abbiamo un testo corretto soprattutto nell'uso di sé, di eius e di suus, quindi è qualcosa che viene acquisito successivamente, ma lo rende molto importante sul piano della storia della tradizione. È infatti la presenza in esso di un foglio pergamenaceo incollato all'inizio, sul quale il Tortelli ha stilato un'altra dedica della vita, e questa è per il vescovo di Zamora, Giovanni de Mela, e in cui viene rivelato l'autentico iter seguito da quest'opera, inizialmente indirizzata al vescovo, suo caro amico, nella convinzione che niente di quello che lui avrebbe tradotto ex grecis oppure avrebbe costruito ex ingeniolo meo potesse essere disprezzato da lui. L'Aretino però venne nel frattempo sollecitato dal Cesarini, sempre lì al concilio, particolarmente attento ad aprirgli la strada verso la carriera curiale, a dedicare ad Eugenio IV un suo lavoro prima di partire per Bologna, dove avrebbe studiato teologia. Tortelli, non avendo altro di pronto se non la vita, fu convinto dal cardinale a dedicare questa vita a Eugenio IV e lui stesso ne diresse la trascrizione. Il Papa ricevette questa vita, il Tortelli la considerò come a lui dedicata ufficialmente. Però non si dimenticò del vescovo, per cui ottenne, rientrato dal suo soggiorno bolognese, ottenne da Eugenio IV una copia della vita legata per discendenza diretta alla prima e stabilì di farne dono affettuoso all'antico destinatario. Per cui anche il Vaticano Latino 215 però ritornò nelle mani del Tortelli, il quale, accanto all'intestazione che è Beatissimo Eugenio Pape IV Ioannes Aretinus Clericus, aggiunge Nunc Romane Ecclesiae Subdiaconus. Era stato fatto diacono nel 1450. Quindi è qualcosa che recupera ancora successivamente. Ed ora vediamo concretamente su quali episodi della vita del vescovo alessandrino si è accentrata l'attenzione del Tortelli. Siamo introdotti brevemente nel periodo successivo alle persecuzioni di Diocleziano, quando finalmente regna un clima di tranquillità e di pace per la Chiesa presto però interrotto dal Confusus Daemon, che cerca di creare nuove guerre e nuove persecuzioni peggiori delle precedenti. Nuove macchinazioni, soprattutto che vanno contro la fede. E questo viene attuato ex isqui, solo di nome sono chiamati cristiani, facendo ritornare all'antico errore che è quello appunto ut creaturam potius quam creatorem adorare contendere, cioè il problema appunto della filioque, il problema del rapporto Cristo Padre, Spirito Santo e Padre e Figlio. Ma un ostacolo alla diffusione delle diaboliche insidie e macchinazioni venne frapposto da Atanasio, che combatté con determinazione i suoi avversari, consacrando tutte le sue energie con intransigenza, zelo, coerenza, spirito di sacrificio, che lo posero tra le figure più eminenti della storia della Chiesa. Ora, per tutta questa introduzione non c'è alcuna citazione di fondo. Soltanto tre citazioni di carattere scritturistico, dagli Acta Apostolorum, dal Salmo 26, da Matteo 14 e 24. Il tutto risulta un collage più o meno libero che prende spunto da Teodoreto, Storia Ecclesiastica 1-2, dalla vita di Atanasio composta da Simeone Metafraste, con inversioni nella disposizione di alcuni periodi, con l'inserzione di alcune righe tratte da Rufino, Storia Ecclesiastica, primo libro, capitolo 14, o decimo, considerato come continuazione di quello di Eusebio, per poi ritornare ancora a Metafraste. Un incastro perfetto, entro il quale il Tortelli inserisce addirittura la sua dichiarazione, cui ho accennato sopra, cioè che lui avrebbe appunto narrato da parte sua le imprese, traducendo fidelissime, aggiungendovi però quanto presso i latini aveva appunto letto, incominciando dagli episodi della puerizia. Ma anche questa inserzione sua personale ha un sostrato metafrastiano. Abbiamo qui una testimonianza già sufficientemente significativa del modo di procedere del Tortelli nella composizione della sua biografia e delle difficoltà quindi incontrate nell'individuare a volte, anche riga per riga, la fonte a cui attinge il materiale per una biografia abbastanza estesa, sono 80 cartelle dattiloscritte. Comunque il primo episodio viene ripreso ancora da Rufino e riguarda il racconto alquanto sospetto che Atanasio bambino, giocando sulla spiaggia, avrebbe battezzato i suoi compagni pagani intenti a parodiare le cerimonie della Chiesa, attirando così su di sé l'attenzione del vescovo alessandrino, che vide in ciò un disegno della provvidenza. Anche questo con aggiunte di particolari non riscontrabili in Rufino. Ma l'attenzione e gli interessi dell'Aretino sono rivolti al problema delle eresie ariane, che vuole illustrare fin dal loro sorgere, che vuole raccontare nella loro evoluzione per soffermarsi sui momenti più significativi del dibattito dogmatico, cioè il Concilio di Nicea. Le vicende si snodano partendo da una descrizione della figura di Ario, del suo ruolo all'interno delle agitazioni che affliggono e molestano la Chiesa, del suo desiderio di essere eletto vescovo al posto di Alessandro, della posizione, lo chiama, dell'anticristo Eusebio, vescovo di Nicomedia, con l'inserzione di varie lettere. Un testo che si dilunga per 10 cartelli, con un solo richiamo esplicito alla fonte. Ut Theodoretus auctor est. Il resto è ripreso, Cassiodoro, Epifanio, Historia Tripartita, terzo libro della vita Constantini di Eusebio. Questo libro viene indicato anche come fonte per la descrizione del confluire dei vescovi da ogni parte della terra nella città di Nicea, con una ricchezza di particolari sui mezzi di trasporto, questi veicola pubblica che erano muli, cavalli, cammelli, asini, navi, sul cibo preparato per questo. Nulla si riscontra nel terzo libro della vita Constantini di Eusebio. Mentre si leggono, ma solo in parte, in Teodoreto 1.6, in Socrate 1.9. Come si può spiegare questa imprecisione? Considerata la struttura della biografia in cui i singoli pezzi possono essere lentamente e pazientemente individuati attraverso gli item, si può facilmente ipotizzare che la scheda è stata inserita al posto sbagliato. E lo confermerebbe anche il fatto che poco sotto viene ripreso ancora lo stesso libro di Eusebio, che è uno degli autori, a mio avviso, più schedato e più letto da Tortelli. In particolare, il Tortelli ci dà di Eusebio anche una breve biografia. Le opere che ha composto, quelle che sono state tradotte da Rufino, quello che è stato tradotto da Gerolamo, ne dà una breve valutazione anche critica, letteraria, e poi anche è a conoscenza di ulteriore opere. Accanto allora a Teodoretto, Sozzomeno, Socrate, Eusebio, Rufino, Metafraste, che per i fatti successivi al Congelo di Nicea diventa una delle fonti preponderanti, Tortelli conosce anche il De Vita Pauli di Girolamo, alcuni scritti di Atanasio e pseudo atanasiani, la lettera ad Marcum Papam, la lettera inviata ad Ortodoxos, la Vita Antonii, che utilizza per un breve excursus sul santo e sulla posizione da lui assunta contro gli ariani. Inoltre alcune note apposte ai margini del testo permettono di arricchire questa serie. Su Eusebio da Vercelli ha letto gli elogi espressi da Ambrogio nelle sue lettere per quanto riguarda l'ingresso di Atanasio in Alessandria dopo il secondo esilio, annota: dopo aver scritto questo sono riuscito a leggere il quodam in un sermone di Gregorio di Nazianzo che lui ha scritto sull'Atanasio, che un simile onore non era stato concesso neppure a un console, neppure a un imperatore, neppure ad un re. E lettura ancor più singolare in questo contesto, ma non troppo, nella breve scheda relativa all'imperatore Giuliano, dove ricorda il poeta Callisto, che era familiare di Giuliano, richiama Libanio. Libanio, che però non era un autore sconosciuto al Tortelli, il quale aveva trascritto degli excerpta delle epistole proprio sul codice che ci conserva il suo lessico e la sua grammatica greco-latina compilata a Costantinopoli. E la traduzione come si presenta? Là dove mi è stato possibile individuare sicuramente la fonte, Teodoreto per esempio, di cui disponiamo di un'edizione critica attendibile, non così per Metafraste, per il quale dobbiamo ricorrere al testo poco affidabile della patrologia latina, io per ora ho fatto solo questo tipo di indagine, si riscontra una stretta rispondenza tra greco e latino, una ricerca dell'equivalente semantico nella fedeltà al modello greco. E questo è in sintonia con l'ideale proposto dalla scuola di Vittorino da Feltre, il maestro presso il quale il Tortelli aveva iniziato l'apprendimento del greco prima di passare a Costantinopoli. È abbastanza in sintonia con il magistero di Vittorino e traduce la Vita di Romolo, dedicandola tra l'altro e richiamando questo magistero. È in sintonia con la sua ben nota attività grammaticale e lessicografica. È in sintonia con quanto individuato recentemente nella traduzione di un'ampia silloge di testi matematici, geografici, medico-filosofici contenuta nel Vaticano Latino 3122. È in sintonia con le sue importanti, quanto ancora inesplorate, osservazioni sulla prassi del tradurre. Nel proemio alla versione degli Analitica Posteriora di Aristotele, l'aretino teorizzava una marcata fedeltà all'originale, da riprodurre senza aggiungere o togliere una sillaba. E questo in un momento in cui, a Roma si proponeva invece una traduzione che tenesse conto dell'ornatus. Un problema nasce per le traduzioni umanistiche e che non sempre è considerato e preso in considerazione: la scarsità degli strumenti linguistici, soprattutto che questi primi umanisti hanno. L'aretino non mancava di strumenti linguistici perché fruiva anche di questo suo lessico che si era costruito a Costantinopoli. Ma le difficoltà erano senz'altro molte, tanto che il Petrarca aveva cercato di studiare il greco sul lessico chiamato Triglossos, in cui le tre lingue, ebraica, greca e latina, venivano presentate nelle loro nozioni indispensabili per la parte grammaticale. Il Filelfo continua a lamentarsi che non c'è disponibilità di grammatiche, di testi di grammatici, e li chiede con una certa insistenza. Il Valla stesso, per poter tradurre Omero, chiede un lessico a Messina. Il Tortelli, dicevo, non si trova, almeno ritornato da Costantinopoli, in queste condizioni. Inoltre ha al suo attivo delle letture particolarmente importanti. Abbiamo visto un bagaglio ricavato da letture di Libagno, dal lessico troviamo anche letture di Sofocle e di Aristofane. Nella costruzione della biografia di Atanasio mette a profitto quanto appreso e letto, ed essa risulta sì costruita su fonti greche, ex grecorum codicibus in nostrum sermonem conscribens, dice lui, gesta prese presso i greci, gesta costruite anche rielaborando in modo personale, come aveva dichiarato nella dedica. Cioè una combinazione di più elementi, una costruzione ad intarsio, in cui i vari pezzi forniti da fonti greche e latine sono a volte esplicitamente dichiarate, più spesso sottaciute, vengono connessi tra loro quasi sempre con accortezza, ma anche alterati e sovvertiti nell'ordine. Una mescolanza di fatti alquanto sospetti sul piano storico, legati più alla leggenda, con vicende tramandate dagli scritti dello stesso Atanasio, senza un'attenta disanima e discernimento delle testimonianze per distinguere l'apocrifo dall'autentico. Una narratio rerum gestarum, fonte di eticità e di esemplarità, quindi, che trasceglie e intarsi a tessere del patrimonio culturale antico riproposto in modo attivo, così da offrire un prodotto finale articolato e nuovo. Avevo iniziato la mia indagine alla ricerca del Tortelli traduttore e l'ho scoperto invece strada facendo, anche agiografo, biografo, dai forti interessi e dalle ampie letture più varie di cui finalmente è possibile individuare in concreto alcuni contenuti che non siano solo grammaticali. Un grande erudito, quindi, a cui non difetta anche una capacità creativa. Questo ha ripagato in parte la fatica dell'indagine e mi auguro soprattutto la vostra pazienza.